Shushana, Shushana, Shushana, come back to my Chinatown. I sing for you, Shushana. I show a memories clown. Shushana, Shana, Shana, come back to my Chinatown. I sing for you, Shushana. Chinatown, Chinatown. Guardando orecchio si vede Shanghai, in fondo ai viali di Vienna, e la sua sagoma si accenna, inconfondibile in mezzo al via vai. Tuo zio ti aspetta, raggiungilo, quando ti guarda decifralo. È tutto cinema, cinema, cinema. Ah, comes back to my old Chinatown. Ah, zio, zio, com'è, com'è, spiega la vita, spiega com'è. Ah, zio, zio, com'è, com'è, spiegami tutto, spiega perché. Piano piano si srotola di questo film la pellicola. Ah, zio. Duke Ellington, grande boxer, tutto ventagli e silenzi, ridi selvaggio, ridi, ridi, tra i gelsomini dell'Africa buia, solo il nipote capisce lo zio, e non c'è bisogno di dirtelo, Shusha, ti meriti un dollaro, Chinatown, Chinatown. Spiega perché, zio, zio, com'è, com'è, spiega la vita, spiega dov'è, tutto si scrotola come di un film la pellicola, zio, zio, Shushana, Shushana, come back to my home.